qualcosa, qualcosa che non è pagato. C'è scritto tassa automobile. Allora non è pagato il bollo. Voglio controllare adesso, vediamo. Tutti i bolli che ha pagato ci risultano. Se no devo andare domani mattina alla cosa dell'agenzia delle entrate, a un ufficio, e chiedere se riescono a farmi almeno rattizzare, capito? Perché un bel. È un bel po', un bel po'. Venga. Se gira intorno ai 350 euro. Parola, parola. Ma tu sei, ma non sarà di quella macchina che ha fermato in campagna? Cos'è? Non ho capito. Quella della Fa 75, no? No. C'è la targa di questa qua, della K, hai capito, della K. Ah, allora gira senza bollo, senza bollo. Per un anno senza bollo. Adesso vediamo cosa può essere. Adesso vediamo se riesco a farmela fare a meno rattizzata e pagare piano piano, già. Io non posso pagarla perché sono senza lavoro. Se me la rattizzate pago piano piano. Ma Giuseppe, tu controlla prima, perché loro le mandano lui sporadicamente senza controllare, poi se tu ce l'hai gli dimostri che ce l'hai, non devi pagare lui. Perché a volte si sbaglia, no? Controlla bene, se non è che tu ti ricordi di non averlo pagato. Io mi ricordo di. Adesso quando scendo in macchina nel coso del libretto, tanto c'ho tutti quanti i bolli lì, capito, io l'ho pagato, io mi ricordo di averlo pagato, poi non lo so, devo controllare bene. Tu guarda quell'anno se c'è. Lo prendi, e gli fai la fotocopia e gliela porti. Gli porti la fotocopia e l'originale, così te la autentificano e si tengono la fotocopia e tu tieni l'originale. Scappa, domani mattina vado all'ufficio delle entrate e vediamo un po' con questa cosa riesco a trovare il bollo che ho pagato. E gli dico, guarda, io il bollo del 2009 di questa macchina l'ho pagato, dunque. Cosa me l'avete mandato a fare? Là c'è anche quella lettera che ti hanno mandato, così guarda il numero di protocollo, la cosa. E cappa, tutto quanto riposto. E poi vediamo un po'. Beh, si lo senti, buonasera. Beh, sì. Morto lì. Fontonia, molto pompa, chi sei? Ehi, acla, Drommito, mi è venuto mal di pancia, ui. Ho quel virus strano, che ti piglia mal di pancia forte, nausea, ruti, non so se tu l'hai passato, ma sai meglio. Ehi, una volta mi è venuto, ho rotto le palle. E poi mi sono drumito, mi sentivo male, sono andato a fare in bagno correndo e poi mi sono addormentato perché ne sono uscito tipo quando mungi la mucca, così avevo la faccia. Sì, sei tutto scorreggiato. Oh, a cusci. Oh. Oh, io. E tu mangiato hai? Sì, ho mangiato solo un piatto di patacco. Non c'è niente voglia, la notte magari qualcosa in più, ma a pranzo solo un piatto di pasta e butto. Sbagliato, si deve mangiare di più di giorno che di notte, perché la notte è poco tempo per digerire, invece all'ora di pranzo, sino all'arrivare alla notte, digerisci bene. Dovresti mangiare un po' di più a pranzo e molto meno la notte. È così che dovrebbe essere, una minestrina la notte, un piatto di pasta oppure una caprese, qualcosa di leggero come faccio io. E adesso che c'è il formaggio con i fuori, ogni tanto assaggio anche quello. Piatto leggero, no, io mangio il primo, mangio il secondo, pranzo. Poi c'è il primo, stavolta magari un bel secondo e basta. E se no già con questa cosa legato e più in grassi burro non vedo casino. Grazie. con il frittatino con le patate e ho mangiato solo quello, non ho toccato altro, c'era le fave e manco l'aglio toccati. Ho mangiato queste fave oggi, lo favoloso, me l'ho invitata oggi, domenica, ma ero in campagna da un amico con tutta la famiglia, hanno tirato le fave, le hanno fatte, ma si scioglievano in bocca, sembravano primiti, lo sai cosa mi ha detto? Che dici come c'è freddo, crescono dopo, e quindi questi qui sono come se fossero le prime. Fave di buon cotto pure, ti si scioglieva in bocca, saporite, tutto ti si scioglieva, rimaneva in una buccia manco di rabbizzare, ti sto dicendo della appena fatte, sbucciate e cotte, loro c'hanno tutto, c'hanno fave, c'hanno frutta, c'hanno vigneto, eccetera, eccetera, ma vabbè, abbiamo mai tutta roba buona, c'era gente anche che abita a Porto Torres e cose, ha portato pulpi pescati da lui, calamari, insomma ognuno ha portato un po' di roba e noi abbiamo portato la carne, insomma siamo stati un po' bene, è una famiglia che siccome sono di questa amica mia, loro si incontrano tutte le domeniche mancabilmente, tutta la famiglia, nipoti, zii, eccetera, eccetera. Ci ha chiesto di andare anche noi per stare in compagnia, perché a Capodanno li avevo fatti divertire tutti, li avevo portati il karaoke, li ho fatti tutti cantare e mi hanno ringraziato, mi hanno detto la porta è sempre aperta per te, perché un Capodanno può essere tutti belli, ma come questo qua mai, ci siamo divertiti proprio. Non sono queste cose, vediamo bene. Certo ci sono lì dentro io. Datemi 10 minuti che faccio un cavettino di massa a questa radio qui. Ecco la risolta, ma cos'è la radio o il microfono? No, queste radio vecchie sono già. Queste radio vecchie lì, capito? A volte aggancia, a volte non aggancia, è un casino. Adesso mi sposto un attimino, faccio un cavettino di massa, riprendete voi che torno subito là. E mettete un po' di starter contatti, vedete, magari c'è qualche roba di gradini di polvere, di cose, prova a soffiare, poi mettete un po' di starter contatti. E adesso lo apro a vedere. Questo è quello che non ho mai fatto. E mi dispiace che c'è molto bene, a volte aggancia, a volte non aggancia, una rottura di palle. Sì, siamo qua. Antonello, molto pompa, ci sei. No, non c'è, riprendi già. Cosa ti stavo dicendo, Giuseppe? E niente, sono stato male tutto il giorno, stamattina, adesso, poco fa. Sono dovuto andare dalla dottoressa, mi ha dato delle pastiglie da prendere. Già, bisogna stare attenti, vabbè, la roba avrebbe preso freddo e risciugato, avrebbe preso freddo, colpo l'aria e ti ha fatto quella cosa pure, è bevuta roba fredda e ti ha fatto male allo stomaco, hai capito? No, ha detto che è un virus che prende così, la pancia gonfia, nausea. A volte la gente dice che prende anche a vomiti, a me grazie a Dio quello là, però mi ha preso così a mal di pancia furti, lo stomaco gonfio, la pancia gonfia, sempre a scorrenza a tosse. Già, mi ha stare attenti, perché c'è poco da scherzare con questi virus, il caso è terribile. I veri? Cosa hai detto con questi? Ho detto con questi virus bisogna stare attenti perché è rischioso. A parte che io sono molto delicato, ho parlato verso il destinale. Sono un bel delicato. Ma lo stesso che questa volta lo dipende da me che è un virus. Metto qualcuno ha avuto in casa, e tu sì. Si è sentita male mia figlia l'altro giorno, aveva la stessa cosa, e allora l'ha contagiato. Già. Adesso tieni a riguardo, ma Oggi, domani, dopodomani non va. No, non va detto di rimanere a casa perché a parte che mi vengono questi mal di pancia fuori, io dalla dottoressa per poco ma ne vado, perché sta venendo un mal di pancia, si fa la pancia dura dura, ti vengono questi mal di pancia fuori allucinati. Ci vedi comunque stanco, ci andiamo a Garda, dalla famiglia. al ristorante, la sera va bene una pizza, ma stamattina mangiamo quando c'è il guffino, c'è il guffino. Meglio così, meglio così. Ma Giuseppe Porto, dirgli che almeno con tutte le ragazze buone che ci sono deve scendere la ciccia a correre avanti e indietro. E facciamo andare sul tornato a Giuseppe, di cui lo trovino, mi si cagano, di già paure, paure. Già è vero quello, vedrai che succede così. Ma va bene, io faccio bianco, dai, ci sentiamo stasera quando rientra, mi sta preparando per andare a lavorare. Statevi bene. Ciao, lei, buon lavoro. Se lo vede Giuseppe quando viene molto roba, gli altri chi lo avevo più curra. La faccia me ne vai a tutti e due, uscia a buchi, tutti e due. A te e a quella motopompa. Scappa. Oh, Claudio. Claudio. Ma quello chi era tu qua? Sì, vabbè, ma è ancora ricoverato l'ospedale, non hai capito? A casa è. A casa è. Eia, è a casa, è a casa. Perché praticamente è andato coso, buffo a trovarlo, doveva andare all'ospedale, invece dice che l'hanno chiamato e gli ha detto di non andare, che l'avevano dimesso. Scappa, vabbè, e allora... Vabbè, quando avremo 5 minuti di tempo ci vado a trovarlo, a vedere come sta, per vedere un po'. Cava, cava. Insomma, non mi manca mai, dai. Ben Espole stava raccogliendo, mi pare, il caso. Espole? E allora? C'è truccato un ramo, cazzo, di fare a due, a capo a terra. E poco ci siamo sbagliati, Ninja. Nespo e ciliegie, ci siamo limi. Un attimo, ho la camicia a stirare al Rutelli, quello che è lutta. senza crema, senza niente, tipo, hai capito, così, semplice, quella torta semplice, senza niente, hai capito? Sì, torta margherita, tu hai detto torta della margherita, io posso capire che cosa è partito, la margherita. Oh, già, dammi un controllo di radio, come va questa? Bene. Atteso a Giuseppe, ha mangiato la torta della margherita, ha detto, ma anche Rutelli c'è. E Gesù, l'hanno fatto dopo, Stanno bene adesso? Era tutto sotto, la radio com'è, buona? Sì, te l'ho detto. Ci ha messo quello spray. Ci ho messo quello spray, sì. Ci ho messo quello spray. Non mi sto ascoltando, la radio se mi dite che è buona, la radio va bene. Sì, non sta più facendo di neschi. Tante volte come sono un po' oscidate, un casino, vedo casino, quando sono vecchie così è ammissibile là. Ma anche perché non lo uso mai, capito? Questo è quello di base, non lo uso mai, 50-24, perché è praticamente come il tocca 5-24 solo base. Il Zodiac B5024, che è della casa, credo che sia la casa del Tokai, dai. Quello che ho avuto io a casa, quello che mi avevi prestato, Lucia. K, ma lo sai quanto tempo è fermo? E oggi lo volevo usare, sganciava, insomma, il microfono è, perché l'ho provato, sto usando il Turner. L'ho provato sulla KB23, va bene, sulla 48 va bene, agli dolore vedi che non aggancia, capito? E poi basta schiacciare la portante, se va, agganciava, però faceva un difetto strano, si abbassava, agganciava qui, si abbassava, e saliva lo smitter, si abbassava e saliva lo smitter, ha detto blu, ma cosa era pigliata a Ferrari? Ha chiesto dei colletti, sicuramente. Stava incollando, basta che gli dai una spruzzata di aria e poi un po' di quello spray già lo dissolve, faccio uno straccetto, poi faccio di nuovo lo spray via, e cavalli che sa ruggia, che sa cosa che va, o lucido che sia, ma tante volte anche superficiale mi lucido, basta un po' di spray lo tutto. E io ho ascoltato quello spray che c'ho, quello di sempre, mi sono spostato, ho fatto due colpi, aggancia per pulirlo, adesso sta tenendo bene, non è un male, ragazzi. E quindi Giuseppe, hai mangiato la torta dei Rutelli? Il Rutello, mi ha fatto fare il Rutino. Oia, Giuseppe. Eia, mamma mia come sto, oi, oggi là, ci ho aperto la bottiglia del coso, dello sfumante, il bilello, no, eravamo in tre e ne ha portato questa bottiglia dello sfumante, è torbato. Torbato Brut, o altro tipo di torbato? Ho portato di cose tipo tramezzini con la roba lì, capi piccolini, erano tutti tagliati a pezzi piccolini, e zucchini là l'ho fatto, e c'è scesa volentieri con la bottina bella fresca, ghiacciata, qua sembravamo seduti nelle sedie, tranquilli, non stava più. Ha pagato travaglia. Cazzo, ma andate in Evalia, Giuseppe, io che ti vengo, sono stanco, e qui, e là. E lei c'è di seduti, la seduta. No, ma a proposito, abbiamo fatto poco oggi, perché, non c'eravamo i studenti, allora ne abbiamo approfittato. le cose veloci e abbiamo finito prima, capito? Noi alle 10:30 avevamo già finito di fare il lavoro, dai. E poi ci siamo fermati, coso, pausa, panino, quella roba lì. E noi ci siamo, e poi ci siamo fatti pure quella bottiglia di sfumantino torbato. Torbato brutto? Eia, torbato brutto. Brutto, brutto. Ad esempio? Di Alghero. Di Alghi, c'è la moce. Ma buono, bello fresco già. Ma ci sembrava che era un bacio. Ma sto uscendo, sì. I banchi sporchi, ci gruzzi, ecco perché dice che faccio. Già abbiamo fatto lavoro, il cazzo già, ne abbiamo fatto, oi. Vabbè, io adesso oggi è 12, domani è 13 e domani è Sant'Antonio. E poi 14, giovedì e venerdì 15. Ultimo giorno per è finito il contratto. Poi c'è il 16, 17, così è. K. E poi ci verrà che poi domani sera alle 3 c'è quella cosa che ti ho spiegato qua, appuntamento alle 3, speriamo che vada tutto bene. Ehi, già va tutto bene, non ti preoccupare, sicuramente già va bene. Speriamo, io spero che sia positivo qua, speriamo, almeno che mi facciano entrare in quel posto lì, e poi dalla scuola a tempo perso lo farò. Cos'è? Io te lo auguro con tutto il cuore, capito? Te lo auguro con tutto il cuore che riesci a sistemare queste cose. Speriamo. Ma la non vorrei sapere, sai, Giuseppe. Ho detto che ci di fronte alla piazza. La... Cos'è già? No, ma Giuseppe sto dicendo, dove devi andare? Alla nuova resa? Non lo so, dove devi andare? No, c'è un incontro lì a... dove c'è Carrefour. Poi ci dobbiamo incontrare con qualche persona. E da lì mi dirà cosa devo fare, cosa non devo fare, che lavoro è, che tipo di lavoro è, capito? Non so niente, ancora no. No, io non devo fare progetti, niente, perché poi va male e mi attacco al tram. No, non ti attaccare al tram, Giuseppe, non ti attaccare, qui è un casino. Poi cari, se ti attacchi al tram, cari, capito? Non fa. Giovanni, facci un po' più grintoso. Io ci vado normalmente già poi. Quando lo becco, mira, ci presentiamo e io sono il signor Finantonio, il lavoro si tratta di questo, l'interessa? Sì, non l'interessa? No, perché tutte le cose devi seguire una prassi, capito? Te l'ho già fatto, mi già. Quei lavori che non ti danno lo stipendio fisso, io sono il primo che quei lavori non li ho mai accettati. Una volta solo ho accettato l'alleanza, ma poi me ne sono andato, non mi dava niente di buono. Se incassavi ti davano il 20%, se incassavi tutti e 300 incassi che dovevi fare, se invece ne mancava uno solo non ti davano nulla. Certo, interessante, già. E infatti io mi sono dato da fare per mesi, dovevo tornare anche 3-4 volte da certe famiglie che oramai avevo già diciamo memorizzato chi erano, sempre le solite, o non c'erano in casa, o non ti aprivano, eccetera eccetera, ci ho tornato 3-4 volte per farti dare, perché allora si tagliavano le tagliandini con le forbici, davi il tagliandino e loro ti davano i soldi. Via, per carità, sempre in cascia, solo in cascia, non devi incasciare nulla. ma poi tante volte non ce la faccio per cacciare tutti e 300 in un mese. Dovevi lavorare, perché dovevi lavorare. Però c'erano sempre quelli che non si facevano trovare, quindi 300 non ce la facevi mai, quindi ora c'era sempre il guadagno pieno. Bel casino, per carità di Dio. Ma Antonello dice non c'è più. Antonello? No, Antonello è andato a lavoro. Ah, a lavoro è andato. E come mai? Anche di sera oggi le tocca. E fa la mattina al comune e la sera al comune. No. Allora sta facendo i soldi. Allora non posso sequestrare la Alessio, Quindi già procede tutto bene. Io ogni tanto lo sento che sgancia, però, vedi? Non sono in cuffia, no. Dico la verità. Sei con le cuffie? Non lo senti sgancciare? No, no, ho detto non sono in cuffia, per quello magari non lo sentivo. E glielo faccio. Ho smontato tutto e pulito bene. Cap. Avanti, okay. Leo. Va bene adesso. Già, quando lo smetto, lasciamo stare così allora. conosce in questo caso. Giuseppe, ah sì, cambio. Il telefono ancora signor, ma sua. Io avevo di chi ci deve fu importati, c'era stato un marocchino di chi ci aveva le marocchie, a te ricordi quello li prendeva? Io mi ricordo, aspetta, c'è Daniele che sta chiamando, avanti Daniele, buongiorno. Sempre a fondo schiena, secco il barco. cambia? Sì, ma se lo metti a 5, da 5 sì, non ti cambia niente di potente. Anche se tu dici che sullo strumento aumenta di 30 watt, ma non ti cambia niente. Quando è in dispersione ti porta via la radio, capito? Invece a 5 il segnale rimane stabile e la modulazione è bella. Cava, ma il MOSFET è diverso, il MOSFET è una fangosa. Avevo ragione io. E le valvole sono una cosa già. Quando c'è le valvole dai 10 watt, io adesso guardo con questo baracchino, con questo Zubia che sta dando 8 watt d'ingresso, e ne sto tirando fuori 750 modulati, quasi 800. La modulazione magari è un po' più compressina, dai, non è forte, forte, forte, però è abbastanza comprensibile. Per intenderci, l'altro è piccolino, però tira, non ti fa... Hai toccato l'ecco già, non ti muppe genuta. Dai una regolata all'ecco, che era troppo alto, troppo ripetitivo era. Sarebbe stato meglio, va bene. Ehi, va bene. E allora, è uscito. E così la lasciamo. Già va bene. tutte le fatti. No, vabbè, Marco Marto è un bel dopo. Dopo Manuela, dai. È nato 9 anni dopo. 9 anni dopo. 9 anni dopo. E vabbè. E noi, boh, adesso mi ricordo esattamente. 8 anni dopo, mi sta dicendo anno. Ma Liliano ne ha perso due. E Marco è nato dopo quei due che ha perso, abbiamo detto se va bene questo, se no non facciamo altro. E invece è andata bene. Vedi, io avete avuto più coraggio, noi invece ci siamo cacati. A volte siamo fessi via, a volte... bastano nulla, ma io prima non se ne sentivo di queste cose, adesso si sente un bel di gente che nasce con malformazioni, c'è anche il figlio di un'amica mia che ha problemi, lo stesso al cuoricino, poverino, adesso 4 anni sicuramente dovranno operare. È un calvario così, già, è un calvario, capito? Era un calvario sicuramente. Quanti anni ha? Quanto avete di differenza tu da Liliano? 4 anni. Quindi è più piccola di Diana, Liliano? Vabbè, non lo so quanti anni ha. 50 ne ha. No, Liliano ne ha 48. Vabbè, già siamo lì comunque. Pagava. E vabbè, ma non sono gli anni, tante volte è anche, diciamo, la grinta che è dentro, la voglia di scherzare, di cose, tante volte può essere più giovani da 50 anni che a 20. Detto canarino, che è avanti, che è il canarino, tenero tenero avanti. Claudio Sparviero e Gianni Doppiurum, cambio. Sentito la risposta di Mario? Sì, una cosa del genere. Vabbè, già va bene, già va bene. Forse se c'è questa mia collega, per 3 volte ha abortito spontaneamente, perché non riesce a avere figli. Addirittura. E come mai? C'è qualcosa, qualche problema? 23 anni c'ha, 24 quasi, ma giovanissima. Si è sposata giovane, cosa, ma non riescono a avere figli. Già 3 volte che è rimasta incinta e l'ha persa. E sure, così non va bene. Così è un bel casino. E per drammatizzare, perché la stava prendendo male, cosa, gli ho detto, qua, ascolta, tu lo sai che, ne, che gli amici ci fanno il momento del bisogno, se hai bisogno di me non c'è problema. Cara morto, che manco lì ti sei regolare proprio già nel caldo, Si è messa a ridere, infatti. No, ma... molto giù, Poi adesso, poveraccia, dopo tutte queste cose che ha avuto, questi avvenimenti, l'altro giorno stava salendo a Sassari per fare dei controlli, e proprio dove abita Gigino, la bestigata, la macchinetta, gli hanno preso la patente per 1 mese, e ha messo 500 euro di multa. Sì, ma male no, ma l'ho fatto con un mio collega. Mio collega non gli hanno sequestrato la macchina, però... hanno fatto il processo, capito? Il processo, stavo andando a 90, dove c'è il limite dei 50, a 90, ha detto che non ce l'ha fatta a passare di più, che li ha visti proprio di sfuggita, e gli ha detto, ascoltate, fate una cosa, se mettete proprio una patria non mettete la multa, o viceversa, pago la multa e non mi togliete i punti, ma tutti e due, dice, no, tutti e due, e stavo andando a 90, in un limite dei 50, dice che ha trovato questi vicini urbani, un vestito. La medaglia di altri, che non guarda niente cose, più giorno. messa in tasca. Il direttore del supermercato l'ha rincorsa e ha chiamato i poliziotti. È arrivato il 113, si credeva che l'arrestavano. Hanno preso 80 centesimi, i poliziotti hanno pagato questo direttore del supermercato e l'hanno rimandata via con la signora. Vabbè. Ne ho visto scene, Claudio, allucinanti, gente piangendo, mi perdoni, non lo faccio più, manco balle, carabinieri e via. E vabbè, questi sono accorti che era una cosa un po' così, capito? Però è una vergogna, cazzo, una vergogna, veramente. Cioè, io non mai cosa vi date una medaglia che sei direttore di un supermercato. Non mi richiamavano di 80 anni che aveva la moglie di un pacco di mentine, non se la poteva comprare, e quindi le ha prese e se le ha messe in tasca. E tu sei così miserabile da non prendere un euro dalla tasca e metterlo nella cassa. Deficiente, c'è bisogno di chiamare il 113. Ma domani che andava a dire le prese, le mettere apposta. Come le regalare, ci farà un raio. No. Doveva comprare di lui, capito? Per fare lo stesso gesto che hanno fatto i poliziotti. In diretta hanno fatto vedere il robo da matti. Ciao, già. Ciao Gianni, si è spostata la frequenza, me ne sono accorto adesso, proprio risposto sull'altro canale, ecco qua, c'è un'entrata lettera dal giretto. Ehi, tanto se mi ascolti bene un poco Torres, o se non ti problemi, anomalie. No vabbè, tu sei sempre giamba, così che non è che mi posso... Sono 9:15 adesso, se non è buono, magari stai usando qualche cosettina più piccola. Il baracchino sto usando con l'amplificatore a farlo andare un po'. E c'era lì che sganciava, capito? Non lo sto usando, allora sto usando questo Zodiac 50-24 base, a vedere se si sgancia i redimi, stavo provando. Buono. Anche la radio è buona, Angelo. Benissimo, la radio è bella forte, amplificata, come piace a me. Ecco qua, Radio Costolanità, dagli suoi baracchini, con il coso che acchiappa la polvere. Ma se no, ogni volta che gli devo fare la pulizia a vedere, smonta tutto. Allora, attaccare il gruppo al muro. Aspetta un po', dicevo, la piccolina, non c'è niente da fare. Va bene. Ok dai, io mi sgancio un po' già, se no sto tutta la sera qua ed è un casino. Se ci siete ci sentiamo più tardi, ciao Gianluca, ciao Gianni, mi vado a tagliare un pochino e ci sentiamo più tardi. Eventuali scordoni, buonasera anche a loro. Ci sentiamo più tardi già, dai, alle prossime, riprenditela. Abituati non ti abitui perché ti scombussola, perché tu quando uno si abitua a fare sempre la notte per dire che fa di notte, allora fa così, ma una volta capita di notte, una volta il mattino, una volta il pomeriggio, e così che non è proprio positivo per l'organismo, capito? Non hai un ciclo perfetto. Sento Dio, riesco a prendere sonno, mi riposo anche quelle 3-4 ore e mi va bene. Adesso io cosa ho fatto? Mi sono svegliato verso le 11:30, mezzogiorno, dove era? Mi sono fatto due cosette qua, ho mangiato veloce, sono uscito, ho fatto il mio giro che mi faccio tutti i giorni, sono rientrato adesso, in questa volta, dopo sono andato da un amico a fare un travagliuccio, niente, forse devo andare a prendere questo trasformatore del computer per la CNC, in aggiunta a Radio 2, Radio Giudesi, uno sì che la corregge, un roba buona. Trovate a Città Mercato, vai. Ma a Città Mercato a Media World ce l'hanno, quelli trust. Buono, ci vuole già, perché ieri sera mi sono messo in corto. Scaldato e sono messo in corto, ho provato a smontato oggi, stamattina ho provato a cambiare il diodo, ho cambiato il diodo, ho cambiato il coso dove ed è tutto in corto, sia nello strumento dove esce la corrente, per alimentare il computer, che è quella che si prende.